Buonasera, un saluto a tutte le ascoltatrici del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare la sesta puntata di Trasformazioni Femministe. Allora, come sa chi ha già ascoltato le puntate precedenti di questo ciclo, un ciclo di trasmissioni in cui ogni volta abbiamo avuto ospiti diverse a parlare delle trasformazioni dei femminismi da diversi lati del mondo e di come i femminismi trasformano il mondo, la realtà quotidiana in cui viviamo. Insomma, senza perdere tempo in chiacchiere, entriamo subito nel vivo dell'argomento, del tema che tratteremo nella puntata di oggi, che sono appunto i percorsi del femminismo marocchino, in particolare negli ultimi 10 anni. Lo faremo intervistando in diretta al telefono due attiviste che vivono in Marocco e che partecipano appunto attivamente alle lotte di questi ultimi tempi, e lo faremo con l'aiuto qui in studio di una studiosa che è una delle massime esperte in Italia di questi temi. Quindi le attiviste che intervisteremo poi le presenteremo meglio dopo. Vi dico intanto che sono Amina Bougal e Lucille Doma, quindi due donne che vivono in Marocco, partecipano attivamente alle lotte, che appartengono a due generazioni diverse. E vi dicevo, invece, abbiamo ospite in studio Renata Pepicelli, che da molti anni si occupa di studiare appunto l'attivismo, le lotte, i percorsi delle donne, delle femministe in diversi paesi del mondo arabo e islamico, quindi dall'altra sponda del Mediterraneo. Renata Pepicelli attualmente è una ricercatrice indipendente, possiamo dire, come molte delle studiose che si occupano di studi femministi in Italia, ma al suo attivo, insomma, molti anni di lavoro di ricerca, di collaborazione in diverse università italiane anche all'estero. E in particolare, insomma, vi voglio ricordare due volumi che ha pubblicato, che sono, insomma, secondo me preziosi rispetto ai temi di cui parliamo oggi, che sono Femminismo Islamico e Il Velo nell'Islam, entrambi pubblicati da Carocci nel 2010 e nel 2012, che sono, insomma, due testi molto completi che rappresentano delle introduzioni a questo mondo che per noi, diciamo, lettori e lettrici anche femministe italiane, molto spesso è conosciuto e guardato anche con un occhio un po' esotista e orientalizzante, potremmo dire. Quindi, insomma, sono due lavori che ci aiutano a capire e a saperne di più. E quindi, intanto, grazie a Renata Pepicelli, benvenuta negli studi di Radio Onda Rossa. Ci sei? Vuoi farci sentire se il tuo microfono funziona? Ciao a tutte e tutti. Ok, magari un pochino più vicina, così la voce si sente meglio. E poi, insomma, ovviamente qui c'è, come sempre, la redazione del martedì autogestito da femministe e lesbiche, che si occuperà anche di tradurre, oltre a condurre, questa trasmissione. E dunque, perché abbiamo scelto di parlare di Marocco questa sera? Ve lo spieghiamo tra pochissimo, perché vogliamo entrare nel vivo dell'argomento di questa sera anche con una selezione musicale a tema. Che dite? Vogliamo cominciare con un po' di musica? Sì, se vuoi sì, almeno come sottofondo lo possiamo mettere e abbassare quando si parla. Perfetto, ci piace l'idea. Allora alziamo quest'altro cursore e vediamo un po' se ce la facciamo. vogliamo dire cosa stiamo ascoltando? Sì, loro si chiamano Bdet Marrakech, un gruppo di donne, anche se le voci sono molto basse, perché hanno deciso di prendere gli strumenti in condizione che talvolta non hanno il diritto a usare gli strumenti. E loro li usano lo stesso. Allora, con questo piacevolissimo sottofondo musicale cominciamo a parlare, insomma, a restringere lo sguardo sul Marocco. Dicevamo che è uno dei paesi in cui sono scoppiate le rivolte, le proteste politiche nel 2011, eppure diciamo il nostro focus, la nostra attenzione si è focalizzata di più, sia la nostra, sia soprattutto quella dei media mainstream, ma insomma dobbiamo dirlo anche qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, forse abbiamo parlato molto più spesso dell'Egitto, della Tunisia, quindi di altri paesi molto vicini al Marocco. E quello che vorremmo chiederci in quest'ora di trasmissione è appunto invece cosa è avvenuto in particolare in Marocco, cosa è rimasto di questi movimenti a 3 anni passati da quella che i media appunto hanno definito la primavera araba, e soprattutto qual è stato il ruolo delle donne in questi movimenti, visto che sappiamo che hanno avuto un ruolo molto attivo, e quali conseguenze questi movimenti hanno avuto e hanno ancora oggi sulla loro vita quotidiana. E quindi volevo chiedere appunto a Renata magari di cominciare a darci un quadro in cui potremo poi inserire le voci delle due attiviste che ascolteremo oggi. Il Marocco, come sappiamo, è un paese che ha in qualche modo è considerato eccezionale all'interno della regione araba, un po' dislocato, sappiamo tutti che sul versante atlantico dell'Africa, e ha visto la rivoluzione, ha visto il vento delle rivoluzioni arabe attraversarlo, ma non fermarsi. In che senso? In Marocco c'è stata una grande ondata rivoltosa sulla scia di quanto succedeva nella vicina Tunisia, in Egitto e nel resto della regione araba. Però non si è arrivati a un cambio di regime radicale così come è accaduto in Tunisia o in Egitto o in Libia. In Marocco, infatti, a febbraio, dopo quanto era successo in Egitto e in Tunisia nel 2011, nasce un movimento chiamato appunto Movimento del 20 febbraio, perché si dà il primo grande appuntamento di piazza il 20 febbraio. C'è un video diventato presto virale, girato da una serie di ragazzi e ragazze giovanissimi, che invita i marocchini a scendere in piazza, per la libertà d'espressione, per la democrazia, contro la repressione poliziesca, per l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna. Il 20 febbraio oggettivamente del 2011 le piazze di diverse città del Marocco, dal nord al sud al centro, si riempiono di giovani uomini, giovani donne, giovani uomini e attivisti di vecchia data. In questo primissimo momento sono soprattutto un attivismo che possiamo considerare laico e di sinistra a manifestare nelle strade. Dopo poco inizieranno a partecipare alle manifestazioni anche le frange islamiste legate ai movimenti del PJD, del partito PJD, attualmente partito di governo, ma soprattutto partecipano i movimenti di islamisti del movimento che in italiano potremmo tradurre con giustizia e spiritualità, che hanno un'organizzazione, va detta, estremamente capillare nel paese. Due anime quindi del movimento, un'anima laica di sinistra e un'anima invece islamista. Posso chiederti a questo proposito di spiegare anche, insomma, per chi ci ascolta, non è detto che siamo tutti, insomma, esperti del mondo arabo, che tipo di governo c'è attualmente in Marocco e quali sono i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, insomma, le strutture religiose? Il Marocco attualmente è una monarchia costituzionale in cui il re Mohammed VI è sia capo del paese sia guida spirituale, quindi tiene insieme due cariche. Le manifestazioni del 20 febbraio e a seguire erano in particolare per chiedere un alleggerimento dei ruoli e del potere del re, e solo piccoli gruppi più radicali chiedevano la repubblica, una riforma radicale, quindi di avere la Repubblica anche in Marocco. La maggioranza della gente chiedeva invece riforme all'interno di un'ottica di monarchia parlamentare. Senti, rispetto all'influenza appunto della religione sulla legge e su, insomma, la vita quotidiana delle persone? La religione, l'Islam influenza profondamente la vita quotidiana di tutti i marocchini, e in particolar modo influenza quelli che sono il codice di legge che regola la vita delle donne. Laddove è più pesante, influente il peso della religione, l'Islam, il cosiddetto codice della famiglia, un codice che è stato riformato nel 2003 ed è entrato in vigore nel 2004. Una riforma che sicuramente è stata salutata come rivoluzionaria all'interno della regione, perché garantiva alle donne diritti prima irraggiungibili per molte marocchine, e vale a dire il diritto a poter richiedere il divorzio, il diritto a potersi sposare senza un tutore, la limitazione della poligamia, l'innalzamento dell'età minima matrimoniale per i ragazzi e per le ragazze a 18 anni. Nella vicina Tunisia le donne godevano di diritti, già di questi diritti anche di più, ma per il Marocco nel 2004 si è trattato sicuramente di una rivoluzione, seppur non compiuta come ci ricordano le femministe, ma un primo importante passo avanti. Senti, rispetto appunto alla condizione delle donne, no, mi sembra evidente che siano stati fatti dei grandi passi avanti con questi cambiamenti legislativi, però ovviamente ci sono ancora molte rivendicazioni da portare avanti. Allora volevo chiederti se nel corso dei movimenti, delle rivolte del 2011, sappiamo, dicevo prima, che le donne hanno avuto un ruolo molto attivo, ma mi chiedevo se appunto le tematiche di genere, le rivendicazioni femministe hanno avuto un ruolo centrale all'interno dei movimenti, oppure se le donne hanno partecipato a questi percorsi politici misti senza concentrarsi appunto sulle rivendicazioni di genere. Purtroppo, malgrado la grande presenza delle donne, sia presenza numerica ma anche presenza nelle assemblee, nei momenti decisionali, come ci tengono loro a sottolineare, nel chi decideva quali slogan scandire o non scandire, le donne fossero in primo piano, questo non si è tradotto in forti rivendicazioni di uguaglianza di genere, di diritti delle donne, nonostante che le donne marocchine abbiano bisogno di un lungo percorso di lotta per acquisizione di diritti. Facendo interviste in Marocco ad attiviste giovani e meno giovani per cercare di capire perché il movimento non avesse prodotto queste rivendicazioni di genere che ci si sarebbe aspettati vista la presenza femminile, le risposte sono state varie, ma sicuramente una delle risposte principali è quella relativa alla grande presenza di islamisti all'interno delle manifestazioni. E l'aver scelto di avere una piattaforma comune tra attivisti laici e islamisti ha fatto sì che si sacrificassero in qualche modo i diritti delle donne pur di continuare a manifestare insieme contro il governo. Ecco, questo è, insomma, sembra di sentire una storia già sentita miliardi di volte, però insomma da quello che hai detto adesso si intuiva che appunto tu sei tornata di recente da un viaggio di ricerca in Marocco e quindi hai avuto l'occasione di intervistare direttamente molte di queste attiviste, e oggi ci hai appunto ci regali insomma questo contatto con due attiviste che adesso chiameremo in diretta, che hanno proprio partecipato attivamente a queste lotte. Quindi non so se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa prima di appunto passare alla chiacchierata, sentire le loro voci direttamente, perché ovviamente parlandone fuori onda ci avevi fatto un po' un resoconto di tutte le anche insomma i cambiamenti legislativi che dall'approvazione di questo nuovo diritto di famiglia fino a oggi sono avvenuti, però effettivamente il tempo è quello che è, quindi non lo so, vogliamo vedere se rimane tempo, ne parliamo dopo, e intanto cerchiamo di metterci in contatto con le nostre due ospiti. Sì, di provare prima a fare i collegamenti. Ok, con benissimo. Loro e poi cercare di recuperare dopo. Allora, diamoci un attimo uno stacco musicale per organizzare la telefonata e parleremo al telefono con la nostra prima corrispondente, che si chiama Amina Bugalbi, e magari poi tu la introdurrai velocemente e ascolteremo la sua voce direttamente. Allora, per ora ancora un altro brano musicale della nostra selezione. قلب فوق راسي تعجبو في ديل ذاتي الباس روحي تشوف الساكن فيا ماشي المسكن برش كتاب والأحلامي ودراعه جردة في منامي وخير من عيني عيني تشوف قدامي هو اللي شد بيدي وقاطع بيا الفصول هو اللي يعني نغني ونكتب ونقول عنده ذوق وشان وسر بغيت proviamo a collegarci direttamente con il Marocco, proviamo a telefonare, ovviamente non è sempre facile, ma adesso ci ascoltiamo ancora un po' di musica e tra poco andiamo in diretta. مفتوح السماء مفتوح نشوف واحد جوج ثلاثة غمامة زرقاء زرقاء غمامة اللي مسافرة كنت شعري الأبيض يتقادى بلا محنة ترقص عدامي حرة. E allora, come anticipato, siamo riuscite a collegarci al telefono con Amina Bugalbi dal Marocco. Volevo chiedere a Renata di presentare brevemente Amina per le nostre ascoltatrici. E innanzitutto ciao Amina e merci. Amina è un'attivista, una giovane attivista marocchina, giornalista, impegnata nel campo dei diritti umani ed è stata una delle voci più note del movimento del 20 febbraio, nonché una delle più importanti portavoci del movimento. E allora vogliamo cominciare a fare qualche domanda direttamente ad Amina sulla sua esperienza all'interno del movimento, perché appunto, come dicevamo prima, no, sappiamo che le donne hanno avuto un ruolo di primo piano nel movimento del 20 febbraio, eppure le rivendicazioni di genere non erano al centro degli obiettivi, delle priorità di questo movimento, e quindi insomma vorremmo chiedere ad Amina perché. Proviamo insomma a ragionare insieme a lei, no, su come mai le donne hanno partecipato così attivamente a questi movimenti senza però portare delle rivendicazioni, delle parole d'ordine femministe o centrate insomma sulla parità dei diritti per le donne, ecco. Allora, bonsoir Amina, tu nous entends? Amina? Oui, bonsoir. Donc la première question qu'elle voulait te faire, c'est que tu nous expliques un peu ou que tu nous racontes le fait que les femmes ont été très actives dans les mouvements sociaux, mais en même temps cela n'a pas été conclu par des acquis d'égalité entre les hommes et les femmes, et les revendications n'ont pas forcément été portées sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes, de revendications féministes. Est-ce que tu peux nous raconter la femme marocaine a joué un rôle important dans les manifestations qui ont eu lieu dans le cadre du mouvement du 20 février. Mais avant ça, il y avait les manifestations et les revendications, le militantisme en général du mouvement féministe marocain depuis les années, si je peux dire, 80-90. Mais la différence, c'est que nous, en tant que jeunes femmes du mouvement en février, nous avons porté nous avons ajouté un peu de spécificité parce que nous travaillons à travers différemment par rapport à ces mouvements féministes traditionnels, si je peux dire. Dans le cadre du mouvement 20 février, nous avons milité pour l'égalité, pour la parité entre les hommes et les femmes. Ça a duré presque une année, notre combat contre le système marocain. Sauf que malheureusement, nous n'avons pas pu réaliser toutes nos revendications. Pourquoi ? Parce que il y avait effectivement des obstacles et des défis. Je parle ici du mouvement islamique qui a été avec nous au sein du mouvement. Sì, fermiamoci un attimo. Excuse così me, traduciamo. Parce qu'il faut que je puisse traduire. Voilà. D'accord. Voilà, tu reprends, garde ton idée. Donc sì, le donne sono state molto attive nel movimento che ha iniziato nel 20 febbraio, ma le donne comunque avevano già lavorato da tanti anni, dalle anni 80 e 90, e le giovani femministe dentro il movimento del 20 febbraio hanno aggiunto una specificità, chiedendo la parità, l'eguaglianza tra gli uomini e donne, hanno lavorato per un anno e hanno combattuto contro il sistema marocchino, ma le loro rivendicazioni non sono state ascoltate, perché si sono confrontate a molti ostacoli, in particolare la tendenza islamica. Voilà, tu peux continuer. Si tu peux faire des petites pauses pour que je puisse traduire, pour pas oublier ce que tu dis. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez là? Oui, vas-y. Allô? Alors, donc, dans le cadre de ma réponse vis-à-vis de la première question, je voulais juste rajouter que malheureusement, les résultats n'ont pas été comme on les attendait. Et là, je parle de la formation, ou plutôt de la formulation du gouvernement marocain, là où il y avait une seule femme ministre. Donc pour nous, c'était un recul, et c'était pas ce qu'on attendait en tant que militante du mouvement 20 février, et surtout que nous avons beaucoup insisté sur la question de la participation de la femme dans la vie politique et économique du pays. E dunque sì, per continuare la cosa che dicevo, dunque anche se abbiamo partecipato molto, i risultati aspettati non sono arrivati, e in particolare per noi che siamo militanti femministe, le cose che abbiamo chiesto, come per esempio la partecipazione attiva delle donne nella vita politica, non è avvenuta. Oui? Vous voulez... Infatti vorrei aggiungere una cosa per dare un'idea del quadro. Dopo le manifestazioni del movimento del 20 febbraio, il re, per placare le rivolte, ha promesso un referendum costituzionale, ha dato una nuova costituzione e ha fatto fare nel novembre del 2011 delle elezioni nel paese. In queste elezioni solo il 17% delle donne è entrato in Parlamento. Donc Renata a fait un petit ajout à ce que tu as dit. On passe à la deuxième question? Si passa alla seconda domanda. Volevamo chiedere ad Amina, allora, ecco, quali sono invece nelle lotte delle donne della sua generazione gli obiettivi primari, cioè cosa vogliono le giovani donne oggi, cosa vorrebbero cambiare della loro vita, del loro paese, dei loro diritti, quali sono i loro obiettivi, i loro desideri. Donc la question qui est demandée, c'est quel serait ce que voudraient les jeunes femmes du Maroc maintenant? Quelles seraient leurs priorités dans ce qu'elles demandent et quelles sont leurs revendications qui pourraient changer leur vie quotidienne? J'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous parlez de priorités? Oui, les priorités vos revendications prioritaires, les choses que vous demandez et qui pourraient vous changer la vie. Dans le cadre de notre militantisme pour les droits de la femme, nous militons surtout pour l'égalité, premièrement entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les droits économiques surtout, je parle de l'héritage. Parce que toujours il n'y a pas une égalité entre les hommes et les femmes dans l'héritage. Je parle aussi des salaires dans les entreprises, surtout dans le monde des entreprises du secteur privé. toujours la femme a moins de droits par rapport aux hommes, surtout au niveau du salaire et des prix et tout ça. Aussi, on y parle pour nos libertés individuelles, parce que, comme vous le savez, le Maroc, en tant qu'un État islamique, il y a toujours des lois qui limitent les libertés de la femme. Je parle de liberté de vivre sa vie personnelle, c'est-à-dire une relation sexuelle hors mariage. Elles sont interdites dans le marocain, en sachant que c'est une liberté individuelle et qui ne touche pas aux autres, au public en général. Alors, la prima cosa, per esempio, sarebbe gli stessi diritti delle donne, in particolare sui diritti economici. Nelle imprese, soprattutto nelle imprese del privato, le donne comunque guadagnano di meno dei uomini. E questo a livello di stipendio, per esempio, è molto ovvio, e dunque una delle prime rivendicazioni sarebbe l'eguaglianza dei stipendi. Poi a livello di vita sarebbe il diritto a vivere la sua propria libertà, per esempio di vivere fuori del matrimonio, mi dici? Sì, in Marocco esiste questo problema che your call was ended because you no longer have sufficient funds. Nessun tipo di relazione al di fuori del matrimonio è permessa ad uomini e donne, vale a dire che se un uomo e una donna si ritrovano soli in una stanza d'albergo o in una casa e non ci sono legami familiari che li tengono insieme, la polizia può anche arrestarli. Ok, nel frattempo, mentre parlavamo, è caduta la linea della telefonata con Amina, e quindi adesso cercheremo di recuperarla. Nel frattempo direi che ci ascoltiamo un altro brano musicale. Ok. Approfitto di questo momento in cui cerchiamo di risolvere il problema tecnico del collegamento con il Marocco per dare un'informazione a tutte le ascoltatrici che ci seguono assiduamente ogni ultimo martedì del mese qui a Trasformazioni Femministe all'interno del mini Pimer del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Cioè, vi ricordo che la nostra prossima puntata non andrà in onda l'ultimo martedì di aprile come di consueto, ma sarà il primo martedì di maggio, quindi il prossimo 6 maggio, e molto probabilmente ci stiamo impegnando per avere in studio tutte le voci che hanno partecipato a questo ciclo di trasmissioni, quindi Renata Pepicelli, Valeria Ribeiro Corossax, Sabrina Marchetti e Caterina Romeo. Quindi continuate a restare in ascolto su Radio Onda Rossa. mentre cerchiamo di ricollegarci telefonicamente col Marocco, impresa non facile, ma insomma gliela faremo, anche perché abbiamo ancora un'altra attivista che vive in Marocco da molti anni, seppure di origine francese, Lucille Dumas, con cui vorremmo parlare, quindi ci proviamo. Nel frattempo però abbiamo qui Renata Pipicelli e volevamo riprendere un po' in mano il discorso che stava facendo Amina rispetto al ruolo delle donne nei movimenti di questi ultimi anni in Marocco. È un tema centrale, insomma, quando si parla di diritti delle donne, è la questione appunto della violenza, perché ovviamente in questo entrano anche quegli strumenti legislativi di cui parlavamo, che sono il frutto degli anni di lotte delle femministe che appunto si sono battute per i riconoscimenti dei diritti delle donne in Marocco. E appunto Renata, che è un'esperta di questi temi, ci stava spiegando mentre preparavamo questa trasmissione che è proprio recentissima, di quest'ultimo anno, l'approvazione di una legge che riguarda appunto i cosiddetti matrimoni riparatori, come si chiamavano anche in Italia fino a qualche anno fa, quei matrimoni a cui le donne venivano obbligate con appunto lo stupratore dopo aver subito una violenza sessuale. Vuoi spiegarci come funziona questa legge, cosa è cambiato? Sì, la violenza contro le donne, soprattutto all'interno della famiglia, è uno dei problemi più grandi con cui oggi si confrontano le donne marocchine, soprattutto le giovani donne marocchine. Nel 2012 finalmente il muro del silenzio che avvolge la violenza domestica è stato squarciato, purtroppo a partire da una storia molto triste, la storia di Amina Filali, una ragazza di 16 anni che si suicida bevendo del veleno per topi dopo essere stata costretta dalla famiglia a sposare il suo stupratore. Fino al gennaio del 2014 in Marocco era infatti previsto dal codice penale che lo stupratore poteva sposare la donna stuprata anche se minorenne e così evitare il carcere. Col gesto di Amina sono scese in piazza moltissime donne e anche, va detto, moltissimi uomini per chiedere la fine di questo stato di cose, e dopo 2 anni di iter legislativo a gennaio 2014 finalmente è stato modificato l'articolo 475 del codice penale marocchino che prevedeva questa via di fuga per gli stupratori. Va detto comunque che la legge contro la violenza sulle donne in Marocco ha bisogno ancora di essere ampiamente implementata. Basti pensare anche al fatto che non è riconosciuto come reato la violenza sessuale all'interno del matrimonio. Ecco, e questo insomma lo sappiamo molto bene, è un nodo cruciale, visto che appunto le violenze sulle donne si consumano molto spesso all'interno dello spazio domestico, questo come sappiamo purtroppo in qualsiasi parte del mondo, no? Anche a casa nostra. E quindi poi insomma sentire parlare di queste storie ci fa sentire forse insomma alleggerisce le distanze, perché in realtà vedo che ci sono dei percorsi che magari in momenti storici diversi sì, infatti, molti, le donne portano avanti da qualsiasi parte del mondo, no? Molti, ascoltando la storia di Amina Filali, hanno pensato alla storia di Franca Viola, una storia italiana della Sicilia di qualche decennio fa, quando fortunatamente una ragazza, dopo essere stata stuprata, riuscì però a opporsi a un matrimonio riparatore. E insomma sono i casi in cui le lotte portano a dei risultati concreti che, come dicevamo, cambiano la vita quotidiana delle donne. Poi insomma questo tema della violenza cioè è una piaga, come dicevi tu giustamente, che molto spesso serve anche proprio a reprimere l'opposizione delle donne, la loro partecipazione attiva alla vita politica, no? L'abbiamo visto soprattutto in Egitto, dove la violenza contro le donne è una vera e propria arma per escludere le donne dallo spazio pubblico, per escludere le donne da ogni forma di protesta. Fortunatamente in Marocco non abbiamo testimonianze dell'uso della violenza di genere contro le manifestazioni, contro le attiviste, malgrado la repressione sia forte nel paese, ma nel vicino Egitto abbiamo sentito di tantissimi casi di donne violentate, molestate per perché manifestavano a Piazza Tahrir. Bene, benissimo. Allora, insomma, credo che sarebbe molto interessante riprendere questi discorsi parlando direttamente con la voce di una delle attiviste con cui stavamo cercando di collegarci, e dovremmo essere adesso finalmente riusciti a collegarci in diretta con Lucille Doma. Vuoi introdurla alle nostre ascoltatrici? Lucille è una vecchia militante franco-marocchina. Dico franco-marocchina anche se lei è una francese, che però da oltre 40 anni vive in Marocco e milita in Marocco per la libertà e la democrazia contro ogni forma di repressione. Lucille è anche uno dei membri di Attac Marocco da una decina d'anni e ha attraversato le varie stagioni del femminismo marocchino. Bene, Lucille è in diretta, salutiamola. Ciao Lucille. Tu nous entends, Lucille? Pronto? Allô? Oh, era in diretta ma non la sentiamo più, e allora prova un attimo a rialzare il telefono, altrimenti no, niente. No, allo Lucille? Allo, oui? Oui, elle est là. Allora un attimo solo che proviamo a riprenderla. On essaye de te mettre sur direct. Ok, abbassa. Vediamo se adesso ci sente. Pronto? Allo? Niente, appena riattacchiamo il telefono non riusciamo a collegarla. Vediamo se così ci sente. No. Allora un attimo solo che cerchiamo di riprendere la telefonata, intanto vi faccio ascoltare un po' di musica. Reste en ligne. Allô? Oui, reste en ligne. On a un problème technique. Allô, tu m'entends? Allô? Oui, ça y est. Oh, ce l'abbiamo. Voilà. OK. Voilà, on va passer tout de suite à la première question. Vous la dites, la question? Che domanda fa? Sì, certo. Allora, la prima domanda che volevamo porre a Lucille è, appunto, visto che sappiamo che lei ha una lunga militanza femminista alle spalle in Marocco, volevamo chiedere di provare a ragionare insieme a noi su cosa è cambiato nelle pratiche femministe, nella presenza femminile, nelle lotte negli ultimi anni, quindi dalla sua generazione, mettendola a confronto con quella invece delle giovani donne che hanno partecipato ai movimenti degli ultimi anni. Alors, vu que tu as un grand parcours féministe de plusieurs années au Maroc, la question qu'on te pose, c'est de nous raconter ce que tu as vu comme changement, et aussi ce que tu as vu comme changement dans le mouvement féministe, et de comparer un peu peut-être les féministes. Je suis désolée, mais je n'entends rien. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô? À peine. Très, très loin. Ah, alziamo il nostro volume. Est-ce que tu m'entends mieux? Allô, est-ce que tu m'entends? Allô? Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter... La question, je vais essayer, mais là, je ne l'ai pas entendue là tout à l'heure. Alors, la question, c'est de nous raconter un peu les changements que tu as vécu au niveau du mouvement féministe depuis que tu y es, et de nous raconter un peu l'évolution entre les différentes générations, peut-être, de femmes féministes au Maroc. Mmh. C'est pas si simple. Peut-être commencer simplement. Moi, je suis arrivée au Maroc dans les années 70, et à ce moment-là, c'était un moment où, une très très grande répression sur tout le pays, ce qu'on a appelé les années de plomb par la suite. Et ce qui est peut-être significatif à cette période-là, c'est que les premiers mouvements à prendre la rue et a osé bouger, ça a été les mouvements de familles de prisonniers, qui étaient des mouvements largement composés de femmes. Oui, je traduis. Je laisse peut-être le temps pour la traduction. Merci. Allora, io posso, non è così facile, ma la cosa che posso fare è di dire che io sono arrivata nel paese negli anni 70 a un momento di forte repressioni, anni che dopo abbiamo chiamato anni di piombo, e a questo momento i primi movimenti che si sono svolti sono stati quelli delle famiglie di prigionieri, e in particolare comunque queste famiglie erano composte di donne, e le donne sono scese. Oui, vas-y, continue. Et à la même période, donc toujours dans les années 70, c'est le moment où on a assisté à l'émergence d'un certain nombre d'organisations de femmes, souvent constituées à partir des femmes de partis politiques, mais aussi dans le sillage de l'émergence d'un mouvement féministe en Europe et dans d'autres pays arabes. Je pense en particulier à l'Égypte et à des personnages comme Nawal Saadawi qui ont beaucoup marqué le mouvement féministe au Maroc. E allora, a questo momento abbiamo visto anche l'emerso di movimento femminista composto in maggior parte di donne dei partiti, ma non solo, e anche abbiamo subito, se posso dire così, l'onda dei femministi europei e anche degli altri paesi arabi, per esempio quello dell'Egitto, in cui Nawal Al-Saadawi è stata una figura molto importante per le femministe marocchine. Lo possiamo dire, insomma, una scrittrice, attivista femminista nota in tutto il mondo e tradotta anche in italiano. Insomma, il suo Firdaus è stato pubblicato da Giunti molti anni fa e insomma conosciutissimo anche qui dalle lettrici italiane. Oui, si tu veux continuer. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu un résultat de l'évolution de la situation qu'on a connue dans ces pays-ci, enfin de ce côté-ci de la Méditerranée, après les guerres du Golfe et après les deux présidences de Bush, il y a eu un mouvement très fort des bailleurs de fonds occidentaux envers les organisations de femmes du monde arabe. Oggi siamo un po' sull'onda dopo la guerra del Golfo e le due mandati di Bush, e il fatto che tanti bailleurs de fonds, dunque tanti fondi sono arrivati dall'Europa verso le associazioni di donne. Oui, vas-y. L'idea c'était che ces pauvres femmes vivant en pays musulmans, avec ces horribles patriarches qui les opprimaient, devaient être libérés en fait par les pays occidentaux. Donc il y a eu toute cette idéologie des pays occidentaux, des arabes sous domination masculine. E dunque questa idea e anche l'ideologia dei paesi europei che avevano preso come compito di salvare queste povere donne arabe sottomesse a dei patriarchi maschili, e dunque questo era. Oui? E en fait ça a entraîné une évolution majeure des organisations de femmes qui se sont éloignées de plus en plus du féminisme, qui ont fait un travail de plus en plus orienté sur les aspects juridiques et sur l'accès des femmes aux institutions, au Parlement, au ministère, etc., au détriment de luttes plus centrées sur les problèmes quotidiens concrets des femmes économiques. E questo ha creato un po' un'evoluzione del femminismo, nel senso per che per una nuova chiamata selezionare 1. per ricollegarsi con lo stesso? Nel senso che molte donne si sono girate verso queste istituzioni, verso chiedere di entrare nei parlamenti, nelle istituzioni anche internazionali, e che ha fatto che si sono un po' allontanate delle priorità o degli obiettivi che erano più legati alla vita quotidiana delle donne. E mo la linea è ancora caduta. Secondo me dobbiamo fare un'altra trasmissione. Sì, assolutamente, perché adesso stavamo arrivando poi alla una parte con una e una con l'altra, perché sì, c'hanno molto da dire e infatti siamo un po' e diciamo che anche fame. Il tempo a nostra disposizione è quasi finito, perché insomma tra 5 minuti finisce questa puntata di Trasformazioni Femministe, quindi non credo che facciamo in tempo a riprendere la telefonata. No, invece potremmo chiedere a Renata, io sono interessata a sapere un po' e approfondire un po' la cosa che dicevi tra la rottura tra diversi movimenti femministi di una vecchia generazione, ma comunque anche se c'è rottura c'è sempre un seguito un po' per capire un po' la cosa che avremmo potuto chiedere a Lucille, forse ce la fai tu. Diciamo che in questi ultimi anni abbiamo visto consumarsi una rottura tra le femministe storiche che sono ancora attive sul territorio con diverse associazioni finanziate, come ci raccontava Lucille, da diverse organizzazioni, organismi internazionali dell'Unione Europea, e giovani attiviste che non si riconoscono totalmente nella storia delle donne che le hanno precedute. Sicuramente riconoscono il loro tributo in termini di lotta, il loro tributo in termini di repressione subita. Molte donne hanno pagato duramente la loro doppia militanza in Marocco, la militanza all'interno di partiti o dei movimenti della sinistra, dell'estrema sinistra, e la militanza femminista pagata con il carcere, con l'isolamento, con la tortura, con la perdita di legami familiari, e sicuramente le giovani attiviste riconoscono a chi l'ha preceduto questo tributo. Tuttavia credono che queste generazioni che l'hanno precedute oggi siano state in qualche modo recuperate nei discorsi del governo e contribuiscano in qualche modo alla costruzione di quello che possiamo definire femminismo di Stato, vale a dire lotte lo Stato che recupera le lotte femministe, le svuota della sua radicalità, della sua dimensione più conflittuale, e utilizza quindi quei discorsi di uguaglianza di genere, di parità, a giustificazione di politiche governative, di scelte governative, senza che però ci sia più un reale protagonismo femminile, un protagonismo che può esprimere anche conflittualità, come fanno oggi le giovani generazioni di cui fa parte Amina, che abbiamo ascoltato prima. Mi sembra interessantissimo, questo sarebbe da approfondire veramente in un'altra puntata, perché insomma vedo molte similitudini con quello che succede dall'altra sponda del Mediterraneo, solo che in questo contesto si aggiunge quella mossa colonialista di cui parlava Cécile, che è quella che consiste, no, nel strumentalizzare le questioni di genere in chiave imperialista, poi no? Sì, direi anche che c'è un lavoro di Jules Falquet che racconta un po' come a livello internazionale le cose come l'ONU hanno recuperato anche i movimenti femministi più radicali per spingerle nelle conferenze internazionali, e recuperano l'energia delle donne, come dicevi tu, tagliando un po' la parte conflittuale che... Eh sì, mi veniva in mente anche invece qui in Italia il lavoro di Anna Simone in Sessismo Democratico, di cui avevamo parlato qui in radio quando è uscito il libro, cioè in cui appunto si partiva proprio da la presa d'atto di questa strategia da parte dei governi per andare ad analizzare i vari contesti in cui le istanze femministe vengono cooptate da appunto le strutture, le istituzioni, eccetera. Insomma, ci sarebbe tantissimo da dire, però il tempo a nostra disposizione è veramente finito, quindi assolutamente cerchiamo di programmare un'altra chiacchierata con Lucille e Amina. Io intanto ringrazio Renata per aver partecipato a questa puntata, è la nostra mitica traduttrice, non so come facevi a sentire perché le linee erano veramente molto disturbate, però insomma siamo arrivate anche alla fine di questa puntata di Trasformazioni Femministe. Io vi ricordo che appunto torniamo in onda il martedì 6 maggio prossimo, sempre all'interno del Mini Pimer, quindi dalle 20:15 alle 21:15, al martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Ultimo pezzo musicale prima di passare a sì, perché volevo dire che comunque, come avevamo puntato un po' su questa cosa dell'evoluzione delle diverse generazioni di femminismo nel Marocco, avevo anche scelto diverse ambito musicale e diverse generazioni musicali, e abbiamo sentito prima, non l'avevo presentata, due giovani, una che si chiama Zara Indi e un'altra che si chiama che loro dicono è inclassibile, e finiamo, classificabile e finiamo con Cheka Adda Ouaki, e lei è più, diciamo, nella tradizione nella musica tradizionale, diciamo, popolare. Okay. Oh, yeah.